Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Dalle finestre liquide fino alle finestre fotovoltaiche, insomma, c'è molta ricerca e sviluppo nel mondo che mira a mettere a punto una nuova generazione di finestre e pannellature in vetro. Se infatti questi componenti architettonici sono migliorati negli anni sotto il profilo della sicurezza e dell'isolamento termico, c'è ancora molto che si potrebbe fare per renderli intelligenti, per esempio capaci di reagire a livello di illuminazione o di partecipare attivamente al bilancio energetico di un edificio. Bene, abbiamo raccolto per voi alcuni degli sviluppi più interessanti degli ultimi mesi in questo settore e ve li vogliamo naturalmente raccontare questa sera. Partiamo da un progetto, il progetto LAWIN, Large Area Fluidic Windows, che rientra nell'ambito dei programmi Horizon 2020 della UE. Questo progetto, coordinato dal professor Lothar Wondratzek del Center for Energy and Environmental Chemistry di Jena, che è una nota città universitaria tedesca, ha come obiettivo lo sviluppo di finestre che usano un fluido per gestire gli scambi di energia con l'ambiente. Questo fluido viene fatto circolare all'interno di particolari microcanali ricavati all'interno della struttura del vetro e permette di regolare automaticamente l'incidenza della luce solare oppure di raccogliere il calore della luce solare che può essere poi trasportato per esempio a un sistema di pompa di calore per riscaldare l'ambiente. Secondo i ricercatori, con questi accorgimenti, con questo tipo di vetri, è possibile migliorare i valori di isolamento termico per la superficie delle finestre di almeno un 20% e addirittura con questo gioco di scambio energetico è possibile ridurre l'energia consumata durante tutto il ciclo di vita di un edificio di ben il 10%. Anche se per il momento si prevede che questo tipo di vetri costeranno due volte e mezza i già, diciamo, non economicissimi tripli vetri. Tutta incentrata invece sulla riduzione proprio dei costi di produzione, la tecnologia su cui sta lavorando David Clark, che ad Harvard è impegnato a coordinare un progetto per mettere appunto delle finestre opacizzanti più rapide nelle transizioni e più economiche delle attuali, che sono molto costose, anche se appunto già esistono. Ebbene, nelle finestre attuali il controllo dell'opacità è affidato a delle reazioni chimiche e il gruppo di Clark pensa che sia questo il problema e ha deciso di puntare su dei processi fisici. E così ha messo a punto un nuovo materiale a basso costo. È un polimero trasparente all'interno del quale sono inglobati dei nanofili d'argento. Questo polimero viene spalmato in uno strato sottile tra due strati di vetro che lo incapsulano e sentite un po' dalla voce di Clark come funziona. There's a force, attractive force, between the nanowires and the substrate, and that deforms the elastomer. The elastomer, the rubber, is very soft, and so its surface becomes rough, and it's that roughness that scatters light. Ebbene, come avete sentito nell'audio, questi nanofili d'argento, una volta che si applica una corrente, si attraggono l'uno con l'altro, facendo raggrinzire questo polimero all'interno del quale sono contenuti. E questo raggrinzimento fa sì che questo strato da trasparente diventi opaco, o meglio, sparpagli la luce con un effetto simile a quello del vetro satinato. Tuttavia, anche questo vetro opacizzante non è privo di difetti. Il principale di questi difetti è che necessita di consumare energia per tutto il tempo in cui resta oscurato. Ebbene, una possibile soluzione arriva dal Massachusetts Institute of Technology, dove il professor Mircea Dinca e i suoi studenti hanno creato un composto che diventa quasi nero combinando due composti chimici, un materiale organico e un sale metallico. Questa particolare soluzione utilizza energia solo quando deve cambiare stato e non per il suo mantenimento. Sentiamo ancora una volta dalla voce del protagonista come funzionano questi strani materiali detti organometallici. So metal organic frameworks are these really amazing materials that are essentially sponges. They can become catalysts, they can become materials for fuel cells or for electrical energy storage. So in essence they're just sponges that look like little rocks, but in fact they have microscopic pores that can uptake a whole bunch of different molecules and ions and species that can impart function to these sponges. Insomma, questi materiali detti organometallici o metallo organici funzionano come delle spugne, avete sentito, in grado di catturare e rilasciare atomi e molecole di vario tipo, tanto che vengono utilizzati soprattutto nel campo dell'immagazzinamento di gas tecnici, come per esempio l'idrogeno. Ma come dimostra la ricerca di Dinka, che per il suo lavoro ha vinto un premio molto prestigioso, il premio Alan Waterman, questi materiali possono benissimo trovare applicazioni anche nella produzione di vetri oscuranti a bassissimo consumo energetico e ad alta velocità di transizione. Le notizie sarebbero ancora tante, ma il tempo è agli sgoccioli, allora solo un brevissimo aggiornamento per chiudere, che ci riporta in Italia e più precisamente all'Università di Milano Bicocca, dove è stato messo a punto un vetro fotovoltaico altamente innovativo basato su delle molecole fluorescenti in grado di catturare la luce e ridirigerla sui bordi del vetro dove viene raccolta da delle celle fotovoltaiche. Questa ricerca, di cui abbiamo parlato anche qualche tempo fa, è ormai pronta all'industrializzazione ed è diventata finalmente uno spin-off universitario, e noi gli facciamo i nostri migliori auguri. Per intanto ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buon fine settimana a voi tutti e buona serata.